Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. I grandi centri commerciali sono entità estremamente energivore. Non è difficile capire il perché. Anzitutto si tratta di illuminare e riscaldare grandi superfici e grandi volumi, ma si tratta anche di farlo bene. Hanno infatti imparato molto presto gli uomini e le donne di marketing che un ambiente accogliente e ben illuminato è una condizione indispensabile per trattenere il cliente all'interno del centro commerciale e invogliarlo così ad acquistare. Poi ci sono i consumi dovuti ai frigoriferi, ai freezer, alla logistica e chi più ne ha più ne mette, è una macchina molto complicata. E come sempre, a fronte di elevati consumi energetici, è concreta la possibilità anche di elevati risparmi energetici. Stasera allora vogliamo raccontare come si è mossa in questa direzione Carrefour, nota catena di centri commerciali che dal 2005 ha avviato un significativo programma di efficientamento. Ne parliamo con Giovanni Piano, Energy Manager di Carrefour. Buonasera Piano. Buonasera. Senta, la prima cosa che le voglio chiedere è, appunto, avete cominciato nel 2005, che passo siete riusciti a tenere nel risparmiare energia? Abbiamo tenuto un passo, diciamo, un tasso di risparmio costante durante il corso degli anni, dal 2005 sino al 2009, pari circa al 4% su base 2005. Questo dipende dalla quantità degli investimenti che abbiamo eseguito anno per anno, che è stata bene o male costante. Questo comunque tra l'altro dimostra che come dire, c'è un potenziale molto elevato, perché se si tiene un passo, in questo caso del 4%, per un certo numero di anni consecutivi, evidentemente i vantaggi sono molto consistenti alla fine del percorso. Assolutamente sì, infatti abbiamo ottenuto 2009 su 2005 un risparmio pari al 14%, espresso in, diciamo, kilowattora al metro quadrato di vendita, che è il nostro indice utilizzato. D'accordo, d'accordo. Allora, quali sono le voci di costo energetico di un grande centro commerciale? Allora, fatto 100 il consumo energetico, diciamo, essenzialmente elettrico di un centro commerciale, abbiamo il 40% dell'energia che va nelle centrali frigorifere, ovvero compressori e tutte le apparecchiature che vanno a mantenere costante la temperatura sui surgelati e sui prodotti a temperatura normale come i latticini, i salumi e così via. Un altro 25% va sull'illuminazione, l'illuminazione della vendita, e abbiamo un altro 20% circa che va, la voce è condizionamento, sia estivo che invernale. Il resto, diciamo, sono consumi dei reparti e il resto che rimane. E voi siete intervenuti più o meno su tutti questi ambiti? Esattamente, ci siamo dati una serie di priorità. Siamo partiti dall'illuminazione, perché è l'ambito più semplice da gestire, certo, sino ad arrivare negli ultimi anni alla refrigerazione alimentare. D'accordo, quindi per l'illuminazione cosa avete fatto? Abbiamo sostituito circa 200.000 lampade con un tasso di sostituzione crescente dal 2006 sino al 2009, quindi parliamo di sostituire le lampade T8 esistenti, che sono i tubi fluorescenti che tutti conosciamo, con delle lampade T5 che sono più sottili e hanno un'efficienza molto maggiore. Sono sempre lampade a fluorescenza da un punto di vista fisico, diciamo, ma sono quelle più efficienti, l'ultimo grido, mettiamola così. Sì. Ecco, invece per il condizionamento cosa avete fatto? Condizionamento si intende quindi sia riscaldamento che raffreddamento di una grande struttura durante tutto l'anno. Per quanto riguarda il riscaldamento e il condizionamento sono due attività. La prima è stata quella di ottimizzare le temperature che vanno mantenute in ambiente, perché per ogni grado di temperatura che andiamo a aumentare d'inverno, diminuire d'estate, perdiamo parecchia energia. Certo, 5-7% per un grado. Esattamente, di differenza. Esattamente, sono numeri elevatissimi. Molto alti, sul nostro sì. perimetro. Abbiamo utilizzato dei sistemi di telecontrollo che mantengono i 20 gradi in inverno e i 25 gradi d'estate, e questo garantisce un risparmio sicuro. In più abbiamo utilizzato dei sistemi chiamati pompe di calore a gas naturale che permettono di riscaldare i nostri ambienti con un risparmio del 40% in confronto ai moderni sistemi di caldaia a condensazione, quindi è una tecnologia assolutamente efficiente, sicura e particolarmente innovativa. Quindi pompe di calore che però, anziché essere alimentate a corrente elettrica come si fa abitualmente, che pure già garantiscono un elevato risparmio, queste vengono alimentate non a corrente elettrica ma a gas, che è un po' più economico, insomma. A gas naturale. D'accordo. Questo 40% voi l'avete misurato effettivamente? Sì, sì, di risparmio energetico. Abbiamo installato una serie di impianti, il primo qui vicino a Milano. In questo impianto abbiamo misurato un risparmio nel consumo di metano rispetto a un analogo ipermercato che si trova qui vicino, pari al 40%. Ecco, poi un'altra cosa che tutti noi sappiamo bene, presente in questi grandi centri commerciali, sono i banchi freezer. Qui avete fatto un'operazione interessante. In questo caso non è stato facile, abbiamo fatto uno studio abbastanza lungo prima di partire, abbiamo deciso di coprire le vasche surgelati, quelle che tutti noi vediamo dove ci sono le verdure, i vari surgelati, gelati e così via, con dei coperchi scorrevoli. Questi coperchi permettono una riduzione dei consumi pari a circa il 30-35% rispetto alla soluzione tradizionale. E avevamo detto che che il surgelamento, come dire, incideva pesantemente sulla bolletta elettrica. Circa il 40%. Ecco, abbiamo coperto 50 ipermercati, pari circa l'80% della rete. Quindi insomma è bastato mettere dei coperchi per risparmiare una bella quantità di energia. Tra l'altro credo che ci sia almeno un altro vantaggio, farà meno freddo in quella zona lì. Infatti i clienti sono soddisfatti perché le temperature nelle corsie si sono notevolmente aumentate, soprattutto d'estate. Grazie Piano. D'accordo, grazie a voi. Anche per oggi abbiamo concluso, Mr. Kilowatt torna domani per parlarvi di stufe, camini a pelle, mais, insomma i sostituti delle normali caldaie, perché ormai siamo arrivati a un livello di programmazione per quanto riguarda l'utilizzo di questi strumenti estremamente sofisticato. Buona serata!